le spine del cristiano. Anche se per la nostra cultura un titolo del genere è deviante perché non rende esattamente l'idea di quello che voglio dire, ho preferito intitolare così le seguenti riflessioni. Per noi le spine sono qualcosa di sgradevole e di doloroso perché procurano dolore al contatto. Per questo, se una persona ci dà fastidio o una situazione è fonte di amarezza, noi diciamo che sono delle spine nel fianco. Nella parola di Dio però troviamo anche delle spine che non sono sgradevoli, anzi, proprio perché sono gradite e piacevoli, esse sono pericolose e disastrosamente dannose per un figlio di Dio. La mia preghiera è che dopo aver letto queste riflessioni, ognuno di noi si liberi delle spine. Glorificare Dio, il nostro Salvatore. Leggiamo ora il versetto di Luca 8:14, valendoci di quattro diverse versioni, perché possiamo comprendere appieno il suo significato. Il passo preso in esame fa parte della parabola del seminatore. Dalla versione riveduta Luzzi, e quel CH è caduta fra le spine, sono coloro che hanno udito ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Dalla versione riveduta revisione 1982, quello che è caduto fra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. Dalla versione Diodati, e la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udita la parola, ma, quando se ne sono andati, sono affogati dalle sollecitudini e dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita, e non fruttano. Dalla versione della nuova Diodati, e la parte che è caduta fra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma, strada facendo, sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita, e non giungono a maturità. La parabola del seminatore è senz'altro la più conosciuta e forse per questo non ci dice un granché. Se ho ben capito però, il motivo di tale atteggiamento non è tanto il fatto di conoscerla, ma perché si ritiene che l'insegnamento in essa contenuto non sia per noi cristiani, ma per i perduti. Infatti essa viene predicata soprattutto nell'ambito dell'evangelizzazione. Gesù però non ha specificato chi fossero gli ascoltatori, ma ha detto quelli lungo la strada, quelli sulla roccia, la parte caduta fra le spine, sono coloro che hanno udito. Gesù con questa parabola non sta esponendo una esortazione ai suoi discepoli, ma presenta il risultato che produce l'ascolto della parola di Dio. I cristiani, fino a prova contraria, sono coloro che maggiormente odono la parola di Dio, e quindi, a mio parere, questa parabola è prima di tutto per loro. In questo studio esamineremo solo il seme che è caduto fra le spine. Le spine, come ha interpretato Gesù, simboleggiano tre cose che riguardano la vita terrena. 1. Le preoccupazioni, le sollecitudini o le cure di questa vita. 2. Le ricchezze di questa vita. 3. I piaceri di questa vita. Come ho detto all'inizio, le spine di cui parla Gesù non sono né sgradevoli o causa di dolore. Anzi, esse rappresentano cose belle come i piaceri, le ricchezze e le occupazioni lecite di questa vita, cioè le attività abituali della nostra esistenza. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere. In mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. Ecclesiaste 5:18. Così io ho lodato la gioia, perché non chi è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Ecclesiaste 8:15. Dobbiamo innanzitutto chiarire una cosa. Queste cose in se stesse non sono né peccaminose né dannose, ma lo può diventare il loro cattivo uso. Esse fanno parte delle cose lecite che Dio ha dato all'uomo. Quale esempio? Basta pensare alla parabola del convito, la quale rappresenta per l'uomo la chiamata a salvezza da parte di Dio. Tre uomini rifiutarono di andarvi perché il primo aveva un campo da vedere il secondo due buoi da provare, il terzo aveva preso moglie. I beni, il lavoro, il matrimonio sono cose più che lecite, ma diventano impedimenti quando diventano più importanti di Dio. Lo stesso vale per il credente. Quando Gesù disse: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita, per causa mia, la salverà». Luca 9, 23-24 si riferiva alla conversione e chiedeva una rinuncia totale senza riserve. Ma quando disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la propria vita non può essere mio discepolo», Luca 14:26, si riferiva alla consacrazione del cristiano e non chiedeva nulla di meno di quanto sia richiesto per la conversione. Ora, rinunziare a tutto quello che si ha, odiare la propria vita, non significa essere amanti della sofferenza, ma mettere Cristo al primo posto. Le spine sono appunto quelle cose che ci impediscono di mettere Cristo al di sopra di tutto. Così le cure della vita, le ricchezze e i piaceri che sono leciti possono diventare impedimenti perché la parola di Dio possa portare frutto nella nostra vita. Il dramma dell'uomo del XX secolo è proprio quello di non aver tempo per le cose di Dio, o almeno che le cose di Dio diventano secondarie. Nel 1938, un predicatore di nome Wilhelm Busch tenne una serie di conferenze nella città di Essen, in Germania. Nel libro Gesù nostro destino sono riportati i messaggi che egli tenne in seguito. In una di queste conferenze alle sue riflessioni diede il titolo «Non ho tempo». Ecco una parte del suo discorso. Vorrei farvi notare un fatto di cui non so capacitarmi e che nessuno sa spiegare. 100 anni fa, quando un commerciante di Stoccarda voleva concludere un affare a Essen, doveva compiere in diligenza un viaggio di 5 giorni per l'andata e altri 5 giorni per il ritorno. Complessivamente 10 giorni per il viaggio e forse altri 2 per le trattative. Ci voleva quasi mezzo mese. Oggi il commerciante fa una telefonata interurbana. E così risparmia 12 giorni. Ora però, fra gli uomini di affari che io conosco, non mi sembra che ce ne sia uno che abbia 12 giorni di troppo. Al contrario, ognuno dice «non ho tempo». Come si spiega? E il lavoro? Prima si lavorava per 60 o più ore la settimana, oggi sono 40 ore. Eppure nessuno ha tempo. Come si spiega? Non dimentichiamo che oggi tutta la vita è semplificata. Ricordo che mia madre leggeva ogni giorno 4 capitoli della Bibbia, ma le rimaneva il tempo anche di pregare per i suoi. A quei tempi non c'era la lavatrice elettrica, né gli altri elettrodomestici. Doveva anche badare a 8 figli che non indossavano biancheria di nylon. Le calze bisognava rattopparle. Eppure aveva tempo per leggere ogni giorno 4 capitoli della Bibbia. Avete anche voi il tempo di farlo? No. Questo tempo vi manca. Come si spiega? Capite? Tutto è organizzato in modo che si possa risparmiare tempo, ma nessuno ha tempo. Sapete spiegarvelo? Io ci ho riflettuto molto, ma non riesco proprio a capirlo. È una sola spiegazione seria. Gli uomini però non vogliono sentirla, ma io non ne conosco altre. Dietro alle quinte ci deve essere qualcuno che fa in modo che gli esseri umani non abbiano tempo. Qualcuno che, come un domatore nel circo, fa schioccare perennemente la frusta per farci trottare. Questo è proprio ciò che dice la Bibbia. Sì, è lui, il diavolo. Questa riflessione è molto seria. Gesù ha detto che la parola di Dio non porta frutto perché le cure della vita, i piaceri e le ricchezze soffocano il suo messaggio. Questo significa che i cristiani non hanno tempo per le cose di Dio. Non hanno tempo per pregare. Non hanno tempo per leggere la parola di Dio. Non hanno tempo per trovarsi con altri fratelli. Non hanno tempo per aver tempo. Non hanno tempo per arrivare in tempo. Ma si sentono a posto, vivono sereni. Forse è questo il vero dramma, più che il fatto di non aver tempo. Perché i cristiani di oggi sono sereni nonostante mettano Dio al secondo posto? Semplice. Perché sono occupati in cose lecite, giuste, per le quali non ci è nulla da ridire. Lavorare e godere. Quello che ci offre la vita non è un peccato, vero? Quando è che diventa peccato? Quando queste cose hanno la precedenza rispetto alle cose di Dio. Ognuno di noi dovrà rendere conto davanti a Dio per non essere stato riconoscente con una vita consacrata a Lui. Abbiamo capito allora qual è il gioco di Satana. Ci sono certi credenti che non arriverebbero mai a commettere dei peccati quali l'omicidio, l'adulterio o adorare immagini, e in quegli ambiti dove Satana non li tenta neppure. Allora che cosa fa il nemico delle nostre anime? Semplice, li tiene impegnati. Dà loro gloria, molta gloria. Dà loro una vita comoda, molto comoda. Dà loro del lavoro, molto lavoro, in modo che non abbiano tempo a sufficienza per Dio. Ho detto tempo a sufficienza perché alcuni forse dedicano a Dio un po' di tempo. Ma quel tanto che serve per tacitare la loro coscienza, quel tanto che serve perché possano chiamarsi cristiani. Lo scopo di Satana è quello di tenere impegnati i cristiani nelle cose secolari, in modo che le cose spirituali abbiano il secondo posto. Leggiamo da un altro libricino molto vecchio ma sempre attuale. Il vero discepolo. Ecco come inizia. Il vero cristianesimo è un impegno totale verso il Signore Gesù. Il Salvatore non cerca uomini e donne che gli vogliono dedicare le loro serate libere o di loro weekend o ancora gli ultimi anni della loro vita, quando vanno in pensione. Egli ricerca piuttosto chi voglia dare il primo posto nella sua vita. Il Signore Gesù ha chiesto qualcosa di molto preciso a coloro che volevano essere suoi discepoli. Si tratta di esigenze che vengono quasi completamente trascurate in questi giorni di vita comoda. Troppo spesso il cristianesimo non è altro che un mezzo per scampare all'inferno ed una garanzia di andare in cielo. Dopodiché, ci sentiamo in pieno diritto di godere il meglio di quello che la vita offre. Possiamo accettare il fatto che i soldati diano la loro propria vita per la patria. Non ci appare strano che dei politici diano la loro vita per il loro partito, ma che lacrime, sudore e sangue caratterizzino la vita di un seguace di Cristo ci appare astruso e difficile ad afferrare. Paolo conosceva molto bene il problema del tempo, soprattutto per quello che riguarda la famiglia. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo. Come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figliola nubile se ella passi il fiore dell'età, e se così bisogna fare faccia quello che vuole, egli non pecca. La dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo, e non è obbligato da necessità, ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliola, fa bene. 1 Corinzi 7, 29, 37. Paolo non sta ordinando alle persone di non sposarsi. Il matrimonio rimane uno dei doni più preziosi. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole, per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Ecclesiaste 9, 9. L'Apostolo mette in guardia gli sposi, perché il matrimonio non diventi un motivo per non consacrarsi a Dio. Infatti egli usa la stessa espressione che ha usato Gesù nella parabola «voglio che siate senza sollecitudine», cioè che le cure della vita, gli impegni e doveri matrimoniali leciti non diventino più importanti degli impegni verso Dio. Da notare che il pericolo riguarda sia gli uomini che le donne, ciò eclide finalmente la tanto sospirata parità. Leon Morris, nel suo libro La prima lettera di Paolo ai Corinzi, commenta così questo brano. Chi è sposato deve in qualche modo interessarsi delle cose del mondo. Ciò naturalmente non vuol dire mondanità nel senso tecnico della parola. È piuttosto un richiamare alla mente il fatto che l'uomo sposato deve badare agli interessi della sua famiglia ed ha degli obblighi che deve assolvere. Fatto questo che comporta un certo interesse per le cose del mondo, egli deve preoccuparsi dei come potrebbe piacere alla moglie e quindi si trova diviso, cioè in conflitto. Anche la donna sposata deve tenere conto delle necessità del marito e proprio come fa lui, deve interessarsi anche alle cose del mondo per piacere al coniuge. E è giusto e doveroso cercare di piacere al coniuge, però questo non deve essere lo scopo supremo per un credente. Troviamone il vero discepolo, il commento su 1 Corinzi 7:29, l'affermazione quelli che hanno moglie siano come non l'avessero. Questo non vuole necessariamente significare che un uomo debba ripudiare le sue responsabilità di famiglia, abbandonare sua moglie ed i suoi bambini e porsi in viaggio come missionario. Ma significa però che egli non dovrebbe vivere per i piaceri e le soddisfazioni della vita di famiglia. Non dovrebbe usare sua moglie ed i suoi figli come pretesti per dare a Cristo il secondo posto. Le spine che soffocano la parola di Dio si trovano anche in famiglia, uno degli ambiti più belli e leciti. Troppe chiese languono perché i credenti non hanno tempo per la Chiesa. Troppe chiese sono semideserte nelle riunioni infrasettimanali. Noi non abbiamo tempo per Dio, mentre Egli ha tempo per noi. Un'altra riflessione di Wilhelm Busch su Marco 10, 46-52. Bartimeo, figlio di Timeo il cieco, gridava a Gesù e tutti lo sgridavano. Se quest'uomo si fosse rivolto a me, io gli avrei spiegato, vedi di ricapire che Gesù è in viaggio verso il Golgota, va a morire per il mondo. Gesù vuole risolvere la questione del peccato. Si tratta di cose di importanza vitale. Adesso non è il momento di importunarlo. Ma il cieco gridava ancora più forte. Qui seguono alcune delle più belle parole del Nuovo Testamento. E Gesù si fermò. Gesù ha avuto tempo anche per un mendicante. Nella parabola del tesoro, Gesù paragonò il regno dei cieli ad un uomo che ha trovato un tesoro in un campo e vende tutto quello che ha per comprare quel campo. Vende per comprare. Il cristiano non è un miserabile, non è uno che non sa fare i suoi affari, ma è colui che sa rinunciare alle cose terrene e passeggere per guadagnare quelle celesti ed eterne. Nessuno può servire a due padroni. Nessuno. Non si può servire Dio e Mammona, cioè il denaro. Dio è un padrone, il denaro è l'altro padrone. Sta a noi scegliere. Non possiamo servire Dio e pretendere di avere quello che hanno gli altri. Gli altri hanno denaro per ogni capriccio, il cristiano no. Gli altri hanno tempo da perdere, il cristiano no. Gli altri vivono la vita a modo loro, il cristiano no. Gli altri non hanno tempo per leggere e pregare, il cristiano no. Gli altri possono avere una vita individualista, il cristiano no. Gli altri nel giorno del riposo possono fare quello che vogliono, il cristiano no. Un giorno un discepolo di Cristo disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre, ma S-E-G-U-I-M-I, e lascia. Questa è la chiave del cristianesimo. Non si può seguire Cristo e pretendere di non lasciare il mondo. Per mondo si intende le oneste occupazioni della vita, le lecite ricchezze, e i legittimi piaceri considerati come i principali scopo della vita. Il pino caribeano ha una particolarità. Esso resiste a forti siccità, a grandi temporali, ma se viene curato si secca. Il diavolo, visto che non riesce a frenare la crescita spirituale di alcuni credenti con le prove, con le persecuzioni, manda loro benessere, comodità, piaceri. Anche i più forti cedono. Dare il secondo posto a Dio, dedicargli i ritagli del tempo, vuol dire disprezzare Lui e i Suoi doni. Esaù vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Singolare, no? Preferì le cose terrene alle spirituali. Per molti anni non ho capito l'ordine, non siate profani come Esaù, ma ora comprendo il pericolo di agire come Esaù. Io sono un profano ogni volta che non do il giusto valore alle benedizioni di Dio. E poco avere la parola di Dio, e poco avere il dono della comunione fraterna, e poco avere la pace di Dio per perderla con delle cose terrene. Da tempo sto pensando come spesso trasgredisco il primo comandamento, non avere altri dii nel mio cospetto. Quando Dio mi ha dato la pace e questa la perdo causa una circostanza della vita, significa che questa circostanza è più importante di Dio. O sbaglio? Quando perdo la gioia della salvezza perché ho litigato con il mio coniuge, allora il mio coniuge è più importante della gioia della salvezza. O sbaglio? Vi chiedo di riflettere seriamente. Le spine del cristiano sono le cose giuste, piacevoli di questa vita. Cosa fare allora per impedire che queste spine soffochino la parola di Dio? Ascoltiamo l'Apostolo Paolo. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché, quando sono debole, allora sono forte. 1 Corinzi 12:7-10. Paolo si dilettava nelle cose avverse, spiacevoli, sgradevoli. Trovare diletto vuol dire trovare piacere. Noi non vogliamo avversità, cose spiacevoli, e preghiamo spesso perché queste cose non avvengano. Ma preghiamo contro il nostro interesse. Il principio divino è rendere debole l'uomo perché egli diventi forte nel confidarsi in Dio. Ho sentito raccontare di una coppia di sposi che amavano il Signore, erano zelanti e si volevano bene, ma non avevano figli. I credenti della Chiesa pregarono per loro ed ebbero un figlio. Poco dopo cominciarono a litigare, lui la tradì con un'altra donna, abbandonarono la Chiesa. Fu un vero dramma. Ci sono sorelle che hanno delle grandi difficoltà in casa e per questo sono ferventi, amano il Signore con uno spirito di umiltà. Ma tolta la difficoltà, il marito si converte o muore, non sono più le stesse. Le difficoltà, i problemi che noi non vogliamo sono quelli che ci tengono legati a Dio. Leggiamo ancora da Il vero discepolo. Luca 14:34. Il sale, certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con chi gli si darà sapore? Ai tempi del Signore Gesù, sembra che non esistesse il sale puro come lo abbiamo noi oggi sulle nostre mense. Il loro sale conteneva varie impurità, come per esempio della sabbia. Perciò poteva capitare che esso perdesse il suo potere salino. Il residuo era insipido e di nessun valore, e non poteva venire impiegato come terra o fertilizzante. A volte veniva usato per formare un sentiero. Così esso non era più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. La morale dell'illustrazione è chiara. L'esistenza cristiana ha un solo fine, glorificare Dio con una vita completamente consacrata a Lui. Il cristiano può perdere il proprio sapore accumulando per sé tesori sulla terra, servendo il proprio piacere ed i propri agi, cercando di farsi un nome nel mondo, prostituendo la propria vita ed i propri talenti ad un mondo indegno. Se il credente non raggiunge l'obiettivo principale della sua esistenza, allora egli è venuto meno in tutto. Prima del ritorno di Cristo gli uomini saranno amanti del piacere anziché di Dio, 2 Timoteo 3:4. Dal momento che il ritorno di Cristo è sempre più vicino, saremo noi in grado di scampare a questo giudizio, giungeremo alla maturità cristiana, porteremo il frutto che Dio si aspetta. Che Dio ci dia di considerare le avversità della vita una benedizione e di guardare con sospetto i piaceri, le comodità e gli onori di questa vita. Se quest'ultima riflessione non la condividete, non importa, l'avete almeno sentita. Novembre 1991. Ellero.